Focus Economia. Con Simone Spezia. Misure ulteriori dovrebbero essere il pagamento di parte dei debiti delle amministrazioni pubbliche, l'allentamento del patto di stabilità interno, la rinuncia all'inasprimento dell'IVA. E seguirono applausi, buonasera care ascoltatrici e cari ascoltatori, seguirono applausi il 29 aprile scorso quando Enrico Letta nel discorso alla Camera dei Deputati disse appunto che si sarebbe rinunciato, o insomma almeno il governo ci avrebbe provato, a non inasprire l'IVA, il passaggio dal 21 al 22%. Il tema è al centro di tutto un dibattito che è essenzialmente politico, nel quale spuntano cose di tutti i tipi. Faccio un esempio, la FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercizi legata a Confcommercio, vi leggo il titolo dell'ANSA per dare un'idea, evitare l'aumento tassando le sagre, risorse per 5 miliardi. Nel frattempo il viceministro dell'economia Stefano Fassina dice che si sta ragionando su diverse soluzioni e insomma dando più soldi alle imprese alle quali lo Stato deve dei quattrini, in quel modo si potrebbero recuperare i soldi per evitare l'aumento dell'IVA o quantomeno per rinviarlo. Già, rinviarlo, potrebbe anche essere rinviato l'aumento dell'IVA, così come è stata rinviata l'IMU, così come è stata rinviata la TARES, visto che questo è un paese che, come dire, non è che sia propriamente un maestro di certezza fiscale, aggiungere altra incertezza forse non è proprio saggio. Comunque vedremo che cosa succederà, parleremo di dove si possono pescare le risorse e parleremo con una categoria, quella degli imprenditori dell'alimentare, che potrebbe essere particolarmente colpita dall'aumento dell'IVA, dal passaggio al 22%. Parleremo ovviamente di lavoro, è in corso ancora l'incontro, il vertice tra i ministri del lavoro e dell'economia d'Italia, Spagna, Francia e Germania a Roma, ci sarà tra poco la conferenza stampa, vedremo se riusciremo a farvene sentire qualche brano. E poi ci occuperemo di antitrust per due motivi, due storie ci sono in questo momento che riteniamo interessanti. La prima l'avete sentita anche nel giornale radio ed è quella che riguarda l'intesa restrittiva della concorrenza e riguarda i traghetti per la Sardegna, e riferito in questo momento solamente all'anno 2011. L'antitrust ha stabilito che c'è stato un cartello tra chi opera tra il continente e la Sardegna per tenere alti i prezzi e ha deciso di comminare anche delle multe, 8 milioni di euro in tutto. E poi c'è un'altra vicenda interessante, l'antitrust è intervenuto ieri anche sui notai, in particolare si parla di tre consigli notarili, quelli di Milano, Bari e Verona. Perché? Perché avrebbero tentato di aggirare, anzi hanno tentato di aggirare, perché è arrivata la sanzione dell'antitrust, hanno tentato di aggirare la liberalizzazione delle tariffe, vecchia storia anche questa. Cosa ci manca? Ci mancano i mercati, mercati a dire la verità piuttosto incerti nella giornata di oggi. Alla fine, in questo momento Milano è in guadagno, più 0,14% sul FTSE Euro Share, più 0,01% sul FTSE MIB, ma come vedete siamo appena appena sopra la parità, un po' meglio va il resto d'Europa, Francoforte guadagna lo 0,46% e Parigi lo 0,08% e negativa è l'America con il Dow Jones che cede lo 0,37%, il Nasdaq allo 0,40%. Da segnalare a questo proposito che è appena stato battuto dalle agenzie il rapporto, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale per quanto riguarda gli Stati Uniti, Fondo Monetario che dice che la ripresa americana è stata tiepida nell'ultimo anno, i fondamentali stanno migliorando, si prevede una crescita dell'1,9% nel 2013, poi dovrebbe accelerare al 2,7% l'anno successivo, quindi nel 2014, ma la previsione iniziale era di una crescita del 3%. Naturalmente anche di mercati, come è naturale, come facciamo ogni volta, parleremo oggi. Iniziamo da qualche notizia in breve. Iniziamo come sempre dalle materie prime. Partiamo dal petrolio, che adesso vi recupero. Il WTI, quello quotato a New York, oggi è salito dell'1,26%, quello con consegna a luglio, a $97,91 al barile. Per quanto riguarda il Brent, invece, quello quotato a Londra, il guadagno è dello 0,69% e il prezzo a $104,25 al barile. Sempre in tema di materie prime, l'oro invece è a $1,387 l'oncia, in lieve rialzo. Il nuovo A350, l'aereo dell'Airbus, si è posato alle 14.06 sulla pista dell'aeroporto di Tolosa Blagnac, nel sud-ovest della Francia. È il nuovo appunto aereo di Airbus, ha fatto il suo primo volo di prova, un volo durato 4 ore. Sempre dagli Stati Uniti, la crisi americana, o meglio crisi, avete sentito dai dati del Fondo Monetario Internazionale che di crisi non si tratta, però la produzione industriale è rimasta invariata a maggio, il dato arriva dalla Fed, peggiore delle attese degli analisti che scommettevano su un aumento dello 0,2%. Ci sono le parole del consigliere esecutivo della BCE, Jörg Asmussen. Le cause della stretta creditizia che affligge paesi come Spagna o Italia, dice, sono gli alti livelli di debito pubblico in alcuni paesi, la bassa crescita e l'insufficiente capitale bancario, temi sui quali spetta ai governi intervenire. E poi ha spiegato Asmussen i motivi secondo i quali, secondo lui e secondo la Banca Centrale Europea, nel luglio del 2012 Spagna e Italia si sono ritrovati con spread così ampi, insomma differenza di rendimento tra i loro titoli di Stato e quelli tedeschi così ampi. E dice il rischio di un effetto domino nel caso di uscita dall'euro di un paese, ed è quello che ha spinto la Banca Centrale Europea a intervenire con lo scudo antispread, imponeva nel luglio 2012 a Spagna e Italia un premio fino a 2 punti percentuali, ossia 200 punti base. Asmussen ha parlato anche dei prossimi stress test sulle banche europee, l'autorità bancaria europea li farà probabilmente nel secondo trimestre del 2014. Ci sono i dati sul debito pubblico spagnolo che ha raggiunto nel primo trimestre il livello record dell'88,2% del PIL, 4 punti sopra i livelli di fine 2012. Ed è record anche per quello italiano, manco a dirlo, sono i dati di Via Nazionale della Banca d'Italia, è tornato a correre a marzo ed aprile dopo la breve pausa di febbraio. Per tutto il 2013 il debito pubblico si è comunque mantenuto stabilmente sopra la soglia dei 2.000 miliardi ed è arrivato a 2.041 miliardi di euro. Dice anche la Banca d'Italia che continua ad aumentare la quota di titoli di Stato italiani in mani estere dopo i picchi negativi registrati fra il 2011 e il 2012. Nel solo mese di marzo la quota di debito pubblico è salita di 16, nelle mani di investitori esteri naturalmente è salita di 16 miliardi. Ci sono anche i dati sulle entrate fiscali, entrate dei primi 4 mesi a 113 miliardi, un più 1,58%. In piena recessione, più 1,58%. Va bene, parliamo di lavoro e parliamo di questo vertice che, come dicevamo, si sta svolgendo a Roma. Iniziamo dalle parole del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, intervenuto alla conferenza dei prefetti a Roma, dicendo, insomma, come vedete l'Europa non si affida solo ai ministri delle finanze. Credo che sia un orgoglio di tutti noi essere riusciti a ottenere che Roma oggi sia un po' la capitale europea della lotta degli europei contro la disoccupazione dei giovani e a favore dell'occupazione dei giovani, a favore del lavoro per i giovani, perché la presenza a Roma dei ministri dell'economia e dei ministri del lavoro dei principali paesi europei oggi è per noi sicuramente un motivo di sprone a fare di più. Ed è anche e soprattutto una grande soddisfazione innanzitutto nel formato di questo incontro che sta per svolgersi a Palazzo Chigi, formato di un incontro che dimostra una volontà di muovere la ruota. L'Europa non si affida solo ai ministri dei numeri, l'Europa non si affida solo ai ministri delle finanze, non è solo l'Ecofin il luogo nel quale si assumono le decisioni, ma l'Europa cerca invece con questo formato che appunto mette al lavoro insieme i ministri del lavoro e i ministri delle finanze, dell'economia e delle finanze, l'Europa cerca di affrontare il tema che è il tema più drammatico, cioè il tema della carenza di lavoro per i giovani, il tema di prospettiva, di futuro. Chi chiede delucidazioni nel fatto di sentire questa voce durante Focus Economia è un caso, è successo la settimana scorsa, è successo questa settimana, insomma sono fatti casuali. Che fine ha fatto Sebastiano Barisoni? Si è preso un giorno libero, insomma nella vita succede, non è che, no? Non siamo fatti d'acciaio. Emanuele Dutto su Twitter mi dice: ancora in onda, ti tengono sveglio con le flebo di Red Bull. No, sinceramente qualche caffè in più magari sì, però. A chi ci scrive invece via sms al 349-238-6666 dice: dobbiamo andarcene dall'euro e dall'Europa. Beh, visto che son qua, no? A Focus Economia, ve lo dico, lunedì a 9 in punto invece parliamo esattamente di questa cosa qua, con un paio di opinioni a confronto. Parliamo di IVA invece adesso, va? Io non ci capisco più niente a questo punto, perché avete sentito che abbiamo fatto risentire il passaggio di Letta in Parlamento nel discorso con il quale poi ha ottenuto la fiducia. Leggo di tutto su questo tema. Comunque mancano 17 giorni, il primo luglio l'IVA passa dal 21 al 22% per una serie di prodotti. Secondo le stime il ritocco dovrebbe garantire 4 miliardi di entrate aggiuntive ogni anno, però chissà, perché poi comunque aumenti una tassa e magari calano i consumi, e quindi che ne sai? L'aliquota, che è l'aliquota ordinaria, si applica a tutti i beni che non rientrano in categorie agevolate, dunque riguarda ad esempio auto, abbigliamento, arredamenti per la casa, biglietti per lo stadio, giocattoli, elettrodomestici, cartoleria e un sacco di beni alimentari, e di questo che parleremo tra poco. Iniziamo però da Dino Pesola del Sole 24 Ore. Buongiorno Dino. Grazie Simone, buongiorno. Allora, io qua veramente non ci capisco più niente. Dicevo prima che c'è addirittura la FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercizi di Confcommercio, che titolo è: IVA, FIPE, evitare l'aumento tassando le sagre, risorse per 5 miliardi. Citando naturalmente il mercato della somministrazione legata a questa offerta parallela, che non sono solamente le sagre, ma sono feste di vario tipo. Poi c'è Fassina che dice: stiamo ragionando su diverse soluzioni. Se aumentassimo di 15 miliardi nel prossimo semestre i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese, bene, comunque fatelo, cioè serva per l'IVA o no, fatelo, e lo facessimo in riferimento ai debiti di spesa corrente, potremmo utilizzare l'IVA che ne viene per spostare almeno fino al 1 gennaio 2014 l'aumento previsto a luglio. Però insomma, spostare non vuol dire cancellare l'aumento, Dino, il problema è proprio questo. Varie ipotesi per la verità, quindi già domani il Consiglio dei Ministri, è quello che si sa adesso, si potrebbe avviare, non so a questo punto se già l'istruttoria per una decisione, ma comunque un orientamento, perché domani il Consiglio dei Ministri si occupa di altro formalmente, pacchetto lavoro, semplificazioni, Però è tutto evidente che con la polemica... E ti aggiungo, Dino ti interrompo, scusa, ti aggiungo perché il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato ha detto anche che domani con il decreto in Consiglio dei Ministri il governo punta a tagliare bollette elettriche a cittadini e imprese per 500 milioni di euro, riducendo oneri impropri e rendite. Così aggiungiamo un elemento a questo calderone di questo decreto in arrivo. Prego Dino. Delle risorse, quindi ora vediamo come verrà articolato, però dicevo, se è vero che il decreto e il provvedimento che lo accompagna, perché sono due, un disegno di legge e un decreto legge, si occuperanno di altro rispetto a IMU e IVA, ed è tutto evidente che data anche l'intensità della polemica politica che oggi si è sviluppata attorno a questi due temi, e del resto era abbastanza prevedibile perché fa parte dell'accordo di governo e dunque adesso si passa all'incasso in qualche modo. Io credo, da quello che si sa, che già domani possa emergere un orientamento. Al momento ci sono varie ipotesi, se vogliamo limitarci all'IVA. Una delle ipotesi è quella di che pare essere quella più accreditata, è quella di un rinvio, così come è stato fatto per l'IMU. Di fatto per l'IMU cosa è stato deciso? Di sospendere, di congelare il pagamento di giugno, stiamo parlando della prima casa, e di rinviare a una riforma complessiva, un riordino della tassazione sugli immobili che arriverà, questo è l'impegno, entro la fine di agosto. Potrebbe esserci un percorso parallelo anche per l'IVA, magari un mese in più, quasi in coincidenza con la presentazione della legge di stabilità. Questo non vuol dire che poi, spostando in avanti, non bisogna trovare le risorse, però intanto invece dei 2 miliardi che servirebbero domani, facciamo conto, sì, andiamo a ottobre, ne servirebbe uno. Certo, Dino, tra l'altro tu parlavi di percorso parallelo, se non erro lo stesso Saccomanni aveva detto che bisognava anche lavorare su come sono distribuite le aliquote. Mi scrive Silvia Bonetti su Twitter, dice: assurdo che i prodotti per l'infanzia come i pannolini abbiano l'IVA al 21 e la tipografia elettorale l'IVA al 10 o gli antiquari abbiano l'IVA al 10, insomma, quindi si può ragionare, probabilmente si ragiona anche in questi termini, no? In un tema di riordino delle aliquote complessivo, no? Questa è la seconda opzione, infatti, cioè la prima, ricapitolando, la prima è il rinvio to cure, va bene, non fa altro che spostare in avanti il problema, fa risparmiare un miliardo rispetto adesso. La seconda è esattamente questa, cioè che si arrivi, però questo è complicato, perché i tempi sono ristretti per fare un'operazione che in realtà richiederebbe ben altri impegni temporali. Comunque l'idea è anche quella di, un invito che ci viene in questo senso anche dall'Unione Europea, a rivedere il paniere dei beni che sono sottoposti alle tre aliquote, perché ora noi ne abbiamo tre. E allora, ad esempio, se limitassimo l'impatto inflattivo ridistribuendo i beni, potrebbe essere quella un'altra soluzione. Infine c'è l'idea comunque di valutare questi percorsi già domani con le cifre che il ministro Saccomanni comunicherà in Consiglio dei Ministri, perché alla fine il problema di fondo è questo, e sulla base di quello che effettivamente si renderà disponibile si deciderà il che fare. Secondo me Dino ti interrompo perché abbiamo una notizia dalla redazione. Breaking news. 12 anni dopo il G8 di Genova è appena arrivata la sentenza definitiva per le violenze alla caserma di Bolzaneto. Ebbene, la Suprema Corte ha stabilito 7 condanne e 4 assoluzioni per i 44 imputati del processo, appunto, per le violenze alla caserma di Bolzaneto. Sono stati anche ridotti i risarcimenti che già la Corte d'Appello aveva stabilito per le 155 parti civili, aveva stimato 10 milioni di euro, ma ora la Cassazione le ha ridotte. Per gli altri è scattata la prescrizione. Tutti i dettagli nel GR delle 18. Ed eccoci, Dino Pesole, concludi, vai. Sì, appunto, dicevo ancora le ipotesi sul campo, domani la decisione ci sarà, anche se non potrebbe anche essere semplicemente un orientamento, stiamo parlando dell'IVA. E il fatto che, a quello che ci risulta, i tecnici dei vari ministeri coinvolti siano stati, come si dice, preallertati per l'intero fine settimana, quindi compresa la domenica, fa ritenere che possa esserci pure un supplemento di istruttoria, come dire, no? Quindi non è detto che tutto venga deciso domani. L'idea, l'obiettivo del Presidente del Consiglio sarebbe quello di arrivare lunedì, che poi è una settimana importante, perché queste misure verranno immediatamente trasmesse a Bruxelles, sì, con l'idea appunto di poi farne discutere nel Consiglio europeo di fine mese. L'idea di Letta è quella di arrivare lunedì con un'approvazione completa del pacchetto e già con un orientamento che ponga fine quantomeno alla polemica politica. Alla polemica politica e alle tensioni sul governo. Grazie Dino Pesole, buona giornata. Io saluto Daniele Rossi, direttore generale di Federalimentare, buongiorno. Buonasera. Allora, le chiedo scusa, abbiamo un po' di ritardo e abbiamo adesso una pausa che se non la do adesso mi ammazzano. Ci sentiamo subito dopo e innanzitutto mi spiegherà quali sono i vostri beni, perché uno dice l'alimentare, no, l'alimentare ha l'aliquota agevolata, in realtà non è così, ci sono molti beni che sono sottoposti a questa aliquota che verrà maggiorata, non verrà maggiorata, non lo sappiamo. Una pausa. Istituzioni nazionali che in ciascuno dei nostri paesi finanziano, fanno finanziamenti pubblici a lungo termine. E quello che sentite è il ministro dell'economia Saccomanni che sta parlando durante la conferenza stampa che insomma si è conclusa adesso, l'incontro tra i ministri economici e del lavoro di Italia, Francia, Germania e Spagna. Noi ritorniamo sull'IVA, chissà se dirà qualcosa Saccomanni di nuovo sull'IVA, può darsi in quel contesto o no. Daniele Rossi, direttore generale di Federalimentare, allora innanzitutto ci dica quali dei prodotti che fanno riferimento alla vostra industria sono coinvolti da questo aumento dell'IVA, così come dire eliminiamo anche questo luogo comune secondo il quale l'alimentare ha solo le aliquote agevolate. Sì, esatto, i consumi in Italia sono circa 220 miliardi di euro, di questi il 30%, cioè quindi 70 miliardi, è assoggettato all'IVA al 21, e stiamo parlando di prodotti di prima necessità, le acque minerali, il vino, la birra, le bevande gassate, che vi posso dire il caffè, il tè, il cibo per cani e gatti, il cioccolato nelle confezioni di pregio, gli zuccheri, cioè tutti i prodotti della pasticceria di pregio, quindi in realtà sono tantissimi i prodotti che sono assoggettati al 21%. E che cosa temete da questo innalzamento dell'IVA? Insomma, avete delle stime di impatto di quanto può pesare sul calo dei consumi può comportare? Esatto, noi abbiamo già fatto una segnalazione in tal senso, un punto d'IVA su questi 70 miliardi pesa quindi 700 milioni di euro direttamente presi dalle tasche dei cittadini ed è una pressione fiscale ormai insostenibile e devo dire in un momento in cui anche il calo dei consumi che è stato ormai che è diventato un fenomeno strutturale nel nostro sistema dal 2008 ha subito un rapidissimo declino all'inizio dell'anno, cioè abbiamo un meno 4,5% che è molto di più di quanto abbiamo visto negli anni precedenti, quindi diciamo si innesca questo aumento dell'IVA poi in un momento estremamente difficile, quindi noi continuiamo a sostenere insieme a Confindustria che il focus principale dell'attività di governo e delle misure fiscali riguardino il mondo del lavoro e in particolare il costo del lavoro e il cuneo fiscale, i giovani, però è vero pure che questa attività sull'IVA può accelerare ancora di più un calo dei consumi che effettivamente oggi chiede politiche di rilancio piuttosto che politiche di inasprimento. Ecco, tra l'altro quei 4 miliardi non sono per nulla sicuri perché poi nel momento nel quale uno aumenta l'IVA, no, aumentano anche i prezzi dei prodotti e quindi il rischio è che semplicemente la gente ne compri di meno e quindi i 4 miliardi ipotizzati. L'aumento dell'IVA ha due fenomeni, da una parte riduce i margini delle imprese che noi rappresentiamo perché non tutto l'aumento IVA è trasferibile sui consumatori, dall'altra genera un meccanismo inflattivo sui consumi con un moltiplicatore di 1,5, quindi non è solo il punto di IVA ma il punto di IVA inflazionato e quindi deprime ancora di più i consumi e toglie risorse alle famiglie. Grazie, grazie a Daniele Rossi, direttore generale di Federalimentare, per essere stato con noi. Mi scusi per la lunga attesa, ma insomma abbiamo la fortuna di avere parecchia pubblicità e di questi tempi non è niente male. La ringrazio, buona giornata, cambiamo argomento e passiamo a parlare di lavoro. E andiamo subito a Roma. 20 giugno discuteranno su come rafforzare proprio questo scambio di esperienze e di migliori pratiche, ma anche un migliore scambio informativo tra i nostri servizi all'impiego per andare verso un'ottica europea anche per questo tema. Si è parlato anche in altre sedi, è stato citato anche oggi la voce del Ministro del Lavoro Giovannini, cioè l'idea di rafforzare le capacità dei nostri paesi di offrire occasioni di formazione, anche di apprendistato, all'interno di un quadro più coerente tra i paesi. Il secondo punto è che in questa prospettiva l'iniziativa sulla Youth Guarantee, la garanzia giovani, è estremamente importante. E credo che da parte di tutti ci sia stata la considerazione che nel rispetto dei vincoli finanziari che conosciamo sia possibile concentrare il prima possibile i fondi, l'utilizzo dei fondi, i famosi 6 miliardi per tutta l'Unione Europea, che deve aiutare a lottare contro la disoccupazione giovanile. In questo senso ci sono naturalmente delle grandi opportunità anche di interazione con il nuovo ciclo dei fondi strutturali, che partirà anch'esso nel 2014, e quindi abbiamo detto che studieremo come riuscire ad aumentare il leverage, la coerenza tra la Youth Guarantee e i fondi strutturali per avere una crescita strutturalmente più elevata, per migliorare il nostro capitale umano e per ridurre nel più breve tempo. E come sentite e come si prevedeva, insomma, se n'era già parlato, insomma, no? Il ministro Giovannini parla dell'attivazione di fondi europei. Parliamo di questo vertice, un vertice a quattro che comprende i ministri dell'economia e del lavoro di Francia, Germania, Spagna e Italia. Da quel che si è appreso, non è in conferenza stampa, decide di non scendere in conferenza stampa, c'era anche il premier Enrico Letta, per fare una sorta di accoglienza. Propone Letta di coinvolgere la Banca Europea degli Investimenti nel contrasto alla disoccupazione e anche le casse depositi e prestiti nazionali. Ha detto anche Letta: non abbiamo più tempo, bisogna agire subito. Arrivano i complimenti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che dice il vertice a 4, un vertice a 4 di questo tipo è un'ottima iniziativa. Lo stesso Letta nel frattempo conferma che ci sarà un piano nazionale. Il piano nazionale arriverà prima del vertice europeo, quello del quale vi parlava tra l'altro poco fa Dino Pesole, un piano nazionale naturalmente per il contrasto alla disoccupazione, con particolare attenzione, come ovvio, a quella giovanile. Arrivano da questo lato anche i complimenti del Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che dice che è molto condivisibile quello che ha detto il Presidente del Consiglio. Di certo sappiamo che le misure non saranno in Consiglio dei Ministri domani, le misure concrete, quella di cui si è parlato tanto soprattutto, che è la decontribuzione e defiscalizzazione per l'assunzione dei giovani tra i 18 e i 29 anni. Le ipotesi che sono circolate sono molte, si è addirittura arrivato a scrivere, abbiamo letto sui giornali, di una decontribuzione e defiscalizzazione totale. Naturalmente bisognerà vedere appunto se le aziende poi saranno in grado di assumerli questi giovani. Di tutto questo, tra l'altro, abbiamo parlato stamattina anche a 9 in punto. Tra poco, subito dopo la pausa per la viabilità, sentiremo che cosa ci ha detto in proposito il sottosegretario al lavoro Della Ringa. Chiedete: ma secondo lei questo vertice a Roma servirà a qualcosa? Volete proprio la sincera verità? No, non credo che servirà a nulla. Però, insomma, intanto si trovano convergenze, si ragiona, ci si incontra, in parte serve anche quello, dice adesso per esempio Saccomanni, c'è stato consenso nel trovare nuovi canali di finanziamento alle piccole e medie imprese che vadano verso strumenti a medio termine, la possibilità per le piccole e medie imprese di mini bond, obbligazioni a caratteristiche semplificate. Insomma, si ragiona intanto e si cerca di trovare delle politiche coordinate a livello europeo che servano davvero fino in fondo questi vertici? Probabilmente no, di sicuro servono più di un vertice a 27. Allora, come si diceva, sentiamo cosa ha detto oggi Carlo Della Ringa a proposito appunto della decontribuzione e detassazione per i giovani tra i 18 e i 29 anni. Questo di una moratoria per i giovani, sì, perché è l'emergenza, quindi bisogna dire facciamo il massimo di flessibilità che anche i sindacati sono disposti ad accettare, sapendo che tra 2 o 3 anni, insomma, questa crisi fa sì che noi dobbiamo sfruttare tutto quello che si può creare, non va buttato via niente, diciamo così, delle occasioni di lavoro. Certo, nel rispetto della legge, ma soprattutto di quella flessibilità che sappiamo tutto sommato è buona anche in normali circostanze. Mi scusi, ho capito bene, una moratoria. Sulle regole per i licenziamenti? No, licenziamenti, sulla flessibilità in genere. Sugli licenziamenti l'articolo 18 non è all'ordine del giorno per un semplice motivo. Noi abbiamo passato tutto l'anno scorso praticamente litigando fra le parti sociali su questo punto. Come è stato detto, poi se le imprese non vendono, noi possiamo fare tutta la flessibilità che vogliamo, ma possiamo dare un contributo non modesto. Se poi tutta l'attenzione politica, le risorse politiche, le preoccupazioni, i litigi, le instabilità devono ruotare ancora una volta attorno a questo punto che purtroppo è diventato un punto ideologico per molti, ancorché uno fosse d'accordo che sarebbe una cosa giusta, uno deve dire ma vale la pena riprendere una discussione che rischia di portare ancora una volta uno stallo politico e sociale. Sono d'accordo che questo governo deve prendere decisioni molto importanti, perché se non piglia decisioni importanti ripete il canovaccio del passato, ma c'è un limite a tutto. Io penso che ci siano regole, flessibilità, soprattutto d'entrata, che potrebbero essere allentate, d'accordo naturalmente con le parti sociali, che accompagnate con un po' di incentivi alle assunzioni danno quel contributo, sia pur limitato, perché tutto il resto riguarda la capacità di vendere, la domanda aggregata, i consumi, l'euro forte, eccetera, eccetera. Quel contributo che va nella giusta direzione, le risorse. Rimane là il nodo delle risorse. Nel frattempo, appunto, arrivano ulteriori aggiornamenti. A proposito delle piccole e medie imprese, dice ancora Saccomanni, dalla BEI arriverà un sostegno alle piccole e medie imprese moltiplicando la base di capitale fino a un massimo che può arrivare anche a 60 miliardi per finanziare appunto soprattutto le piccole e medie imprese. Proponete, leggo via SMS, videoconferenza per i ministri invece di riunioni costose. Passiamo ai mercati, va? Chiara Di Cristofaro, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Simone. Alla fine, con un po' di fatica, ce l'abbiamo fatta a chiudere in positivo. Sì, con un po' di fatica, come dici tu, perché è stata un'altra giornata all'insegna della volatilità sul mercato, quindi gli indici hanno oscillato in positivo e negativo per buona parte della seduta. Piazza Affari è stata quasi sempre la peggiore oggi in Europa, con ribassi comunque limitati. L'attesa è per la riunione della Federal Reserve della prossima settimana, la Banca Centrale Americana. Il mercato teme che possano finire a breve il piano di aiuti all'economia. Sono arrivati anche una serie di dati americani un po' misti, quindi l'elemento prevalente direi che continua ad essere quello dell'indecisione della volatilità. Questo complessivamente, FTSE MIB più 0,23%, FTSE All Share vediamo un attimo più 0,33%, quindi abbastanza bene. Negativa l'America in questo momento, il Dow Jones cede lo 0,61%, il Nasdaq è lo 0,6%, Francoforte ha chiuso con un guadagno dello 0,40%, Parigi dello 0,19%. Allora, la giornata di oggi, iniziamo dai titoli migliori di oggi, va? Questa Popolare di Milano che guadagna un 4,6, un 4,7%. Sì, la Popolare di Milano ha fatto un balzo nel pomeriggio, in realtà non ci sono particolari notizie, è un titolo che si muove molto in maniera molto nervosa ultimamente, si era mosso molto in rialzo quando si parlava di un cambio all'interno dell'istituto di credito. Adesso in realtà poi ha perso molto, quindi quello di oggi è sostanzialmente un forte rimbalzo tecnico. Pirelli più 3,3, qua non mi sembra che ci siano motivazioni di azionariato, è più un tono di tutto il settore in Europa, no? Sì, oggi sono andati abbastanza bene tutti i titoli industriali a Piazza Affari, guardiamo anche Fiat Industrial, si è mossa bene, è andata bene anche Fiat, insomma è un tono di settore, ma come è una di quelle giornate in cui si muovono in rialzo i titoli che ieri avevano perso maggiormente, insomma un po' questo il trend. Tra l'altro poi ci sono anche i risultati di Michelin che sono positivi, esatto. Quindi insomma evidentemente questo ha un impatto. Fondiaria Sai più 3,24%, Autogrill più 2,8%, Parmalat più 2,7%, Campari più 2,41%, Gitec più 2,25%, Atlantia più 1,95%. Andiamo in fondo al listino dove troviamo Ansaldo, qua motivazioni particolari, che era meno 2,5%. Neanche qua. Le attese per il titolo, è un titolo che sale molto quando ci sono notizie in cui sembra che le cessioni delle attività in vendita siano più vicine, e poi perde quando invece non se ne parla sostanzialmente. A2A meno 2,4%, qua sì invece ci sono i motivi. Sì, qui dei motivi ci sono. Ieri c'è stata l'assemblea e l'assemblea ha approvato il dividendo, la proposta di dividendo, la relazione sulla remunerazione, ma soprattutto si è parlato di cambio di governance. Infatti ci potrebbe essere un passaggio anche nel management. C'è stato anche il downgrade di un broker sul titolo proprio dopo questa ipotesi di revisione della governance e sui timori di un cambio del management. Il report dice infatti se questo cambio di governance non comportasse un cambiamento a livelli manageriali sarebbe una notizia positiva, ma se così fosse invece non andrebbe bene per la società. L'addio al sistema duale, di fatto questo sarebbe il cambio di governance, potrebbe far uscire l'attuale presidente del consiglio di gestione Graziano Tarantini, che era espressione della passata amministrazione di Brescia. Questo potrebbe quindi avere ripercussioni anche su lui. Chiara, abbiamo ancora un minuto, ti voglio sì. Su Monte dei Paschi che mi sembrava che in corso di seduta sì, fosse andata bene, e poi un meno 1,04, esatto, così dei titoli peggiori, invece ha perso meno 0,9, quasi un punto percentuale. Cioè era uno dei migliori e poi ha perso un punto percentuale, ma come mai? Esatto, qui è stata approvata l'abolizione, si è parlato di nuovo dell'abolizione del tetto del 4% per i soci diversi della fondazione MPS, si vota tra un mese, questo ha fatto salire il titolo in mattinata, in realtà poi sono uscite delle indiscrezioni su un possibile raddoppio dell'aumento di capitale e questo invece è un po' pesato. Grazie anche a Chiara Di Cristoforo di Radio Cuore il Sole 24 Ore e ai colleghi di Radio Cuore il Sole 24 Ore sempre per il supporto che ci danno sui mercati. E nel frattempo prosegue la conferenza stampa congiunta dei vari ministri a Roma, dice il ministro Giovannini, appunto come avete sentito, che lo sforzo non deve arrivare solamente dal settore pubblico, ma una partnership tra pubblico e privato. Noi adesso ci fermiamo, il 349-238-6666 come sempre il numero per i vostri sms. Non ho sotto mano e non ho accesso alla pagina Facebook di Focus Economia, non essendo il titolare della trasmissione, però se volete mi potete scrivere se siete in rete. Su Twitter Simone Spezia, ci sentiamo tra poco dopo il GR. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, eccezionalmente oggi in conduzione anche di Focus Economia. Continuano ad arrivare notizie o meglio dichiarazioni dal vertice, dalla conferenza stampa che è seguita al vertice tra i ministri del lavoro e dell'economia di Francia, Italia, Spagna e Germania. Dice il ministro Saccomanni: una delle finalità di questo incontro è quella di dare un segnale di forte attenzione per il ritorno alla crescita delle nostre economie e per un'efficace e seria lotta alla disoccupazione giovanile, problema che c'è in tutta Europa. Ma vedremo che cosa succederà. Intanto arrivano dei vostri sms interessanti. C'è chi dice che il punto non è tanto la detassazione per i nuovi assunti, ma quanto un abbassamento complessivo del cuneo fiscale. È quello che chiede Confindustria, forse probabilmente quello che in realtà alla fine chiediamo tutti. Il bel messaggio di Enzo che dice: a 30 anni quasi suonati mi ritrovo a fare il secondo apprendistato, stavolta professionalizzante. La regione non finanzia un euro per i corsi di formazione, l'azienda neanche a parlarne. Vorrei capire dal prossimo anno chi mi riassume e quali competenze ho acquisito in questi 8 anni di apprendistato. E tra l'altro le dico, a 30 anni non rientrerebbe in quegli incentivi che intendono approvare. Altri ci scrivono: guardate che la vera generazione bruciata siamo noi tra i 30 e i 40, non sono quelli tra i 18 e i 29. Anche questo è un tema del quale naturalmente il governo dovrà tener conto, così come dovrà tener conto dei disoccupati di lunga durata, altra questione importante, e anche degli over 50, quelli che sono usciti dal mercato del lavoro e che adesso non se li vuole riprendere più nessuno. Veniamo ad un altro argomento e parliamo di antitrust. Perché l'autorità garante per la concorrenza e il mercato ha deliberato che Mobi, Snav, Grandi Navi Veloci e Marinvest hanno fatto cartello sostanzialmente per l'aumento dei prezzi per il trasporto passeggeri nell'estate 2011. Sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres. La multa è da 8 milioni di euro. Le denunce nella stagione estiva 2011, o meglio, non le denunce, insomma, è quello che è risultato. Nella stagione estiva 2011 i prezzi sono aumentati mediamente del 42% sulla Civitavecchia-Olbia e del 50% sulla Genova-Porto Torres. A chi vuole maggiori ulteriori approfondimenti raccomando il podcast di 9 in punto di ieri o dell'altro ieri, abbiamo parlato esattamente di questo. Dice il presidente della regione Sardegna, Ugo Cappellacci: è una vittoria su tutta la linea, siamo felici di aver avuto ragione, ma soprattutto di aver sollevato il problema all'origine e di aver promosso il ricorso all'antitrust. E non c'è solamente però il ricorso all'antitrust. Buongiorno Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo. Eccomi, buongiorno. Non c'è solo il ricorso all'antitrust, perché voi avete promosso anche una class action. Esattamente, è partita già ormai da più di un anno, momentaneamente sospesa dal Tribunale di Genova in attesa proprio della decisione dell'antitrust che è arrivata oggi. Anche noi come Presidente della Regione Sardegna confidavamo nell'accertamento di questa intesa vietata tra alcune compagnie, le principali su alcune tratte come Mobi e Grandi Navi Veloci. E quindi adesso siamo pronti a ripartire con la class action al Tribunale di Genova, a raccogliere altre adesioni oltre alle 7.000 e passa che abbiamo già raccolto dall'inizio di questa vicenda. Quindi invitiamo di nuovo a chi ha viaggiato soprattutto nel 2011 a iscriversi sul sito di Altro Consumo per poter rimanere informato sulle future iniziative, l'evoluzione di questa azione che è finalizzata a ottenere il risarcimento del danno, perché oggi l'antitrust ha sanzionato le compagnie, ma resta naturalmente aperto il problema di risarcire una parte del prezzo pagato da chi ha viaggiato. Ecco, nel frattempo Bartiero, gli aumenti sono proseguiti, però mica si sono fermati. Nel frattempo sono proseguiti sicuramente nel 2012, difatti noi avevamo chiesto all'antitrust di valutare anche il comportamento delle compagnie nell'anno successivo, questo l'antitrust non ha ritenuto di farlo al momento, però noi riteniamo di poter sostenere nel giudizio civile, nella class action, che il danno subito dai consumatori possa ricomprendere non solo il 2011 ma anche il 2012, e parliamo di un aumento che può essere stimato intorno al 50% del costo del biglietto, mediamente diciamo attribuibile a questa, ai risultati negativi di questa intesa tra le compagnie. Abbiamo una pausa per la viabilità e poi la voglio subito dopo, perché in realtà c'è una difesa da parte delle compagnie che per certi aspetti non è nemmeno troppo d'ufficio, almeno per quanto riguarda quest'anno, e riguarda per esempio il prezzo del gasolio, che è salito in maniera ben più che consistente del gasolio per le navi traghetto. Un attimo, subito dopo la viabilità. Ed eccoci di nuovo. Dunque, Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo. Due elementi. Ecco. Il primo è quello che replicano le compagnie, devo dire soprattutto per quanto riguarda l'ultimo anno, insomma, perché oggettivamente il bunker, così sì, si chiama il gasolio per le navi, insomma, per i traghetti, è sostanzialmente raddoppiato, e quindi dicono, insomma, signori, noi possiamo fare quello che vogliamo, ma non possiamo nemmeno viaggiare in perdita. E dall'altra parte invece una sollecitazione che ci arriva da un ascoltatore via SMS e dice: come volete che finisca e dove la scaricheranno questa multa alla fine? La scaricheranno sugli utenti dei traghetti. Beh, allora, intanto sulla questione del prezzo del gasolio, questa era una delle argomentazioni che le compagnie hanno usato per difendersi anche in sede di procedimento antitrust. Nel 2011 l'aumento effettivamente ci fu molto forte, circa il 40% rispetto all'anno prima, ma l'antitrust ha evidenziato che il costo del gasolio è una delle componenti di prezzo, non supera mediamente il 40-42%, e quindi l'aumento del prezzo finale ricollegabile a quella componente non poteva arrivare al 60-65% come ci è avvenuto, quindi quella è una giustificazione non sufficiente per spiegare l'aumento allineato e concertato dei prezzi che si verificò quell'anno. Penso che lo stesso argomento valga anche per quest'anno, adesso non ho sotto mano l'andamento dei prezzi, però tutto sta a vedere, intendiamoci, aumentare i prezzi, se aumenta i costi non è certamente illegale, ci mancherebbe, diventa illegale quando gli aumenti dei costi sono sproporzionati, l'aumento dei prezzi è sproporzionato rispetto ai costi, e quando è il frutto di un accordo o di uno scambio di informazioni o di un'intesa, come l'antitrust ha ritenuto esserci in questo caso. Ultima domanda che le voglio fare, ed è quella in realtà che le ho già fatto prima e della quale forse si è scordato, poi alla fine questi soldi della multa verranno scaricati, no? Allora, non è detto, o quantomeno non dovrebbe avvenire così automaticamente. Le sanzioni certo che sono un costo per le aziende, però non tutte le aziende, in questo caso chi trasporta i traghetti, sono state sanzionate. Non sono state sanzionate per esempio la Sardinia Ferries e la Corsica Ferries, che peraltro hanno anch'esse aumentato i prezzi perché hanno seguito le politiche di prezzo degli altri, e quindi se anche fosse una politica che incidesse sul prezzo finale, incide sul prezzo finale delle compagnie che hanno violato la legge, quindi in qualche modo quelli che non l'hanno fatto diventeranno più competitivi rispetto alle altre concorrenti. Grazie a Paolo Martinello, che è appunto presidente di Altro Consumo, per essere stato con noi. Da dire che abbiamo provato a contattare degli armatori, non siamo riusciti ad ottenere risposta, perché naturalmente cerchiamo sempre di dare le due opinioni. Ci sembrava comunque importante trattare l'argomento. Grazie Martinello e buona giornata. Buonasera, scusate, l'abitudine a 9 in punto evidentemente mi fa scambiare il giorno con la sera. Noi restiamo sempre in tema di concorrenza. E sempre in tema di antitrust, di decisioni dell'antitrust. Però questa volta non riguarda i trasporti, riguarda i servizi dei professionisti, in particolare dei notai. Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, è successo che sono arrivate altre sanzioni, in questo caso ai consigli notarili di Milano, Bari e Verona. Come mai? Sì, è la seconda volta che in un mese l'autorità che vigila sulla concorrenza sui mercati sanziona degli ordini professionali. Un mese fa era toccato al 5 ordini di avvocati per aver eretto, diciamo così, barriere all'ingresso dei professionisti che arrivavano dalla Spagna, in conflitto con la libera circolazione poi del mercato del lavoro. Questa volta invece riguarda i notai, appunto, come dicevi, tre consigli notarili, per aver tentato di ripristinare il meccanismo delle tariffe. Il mitico tema delle tariffe abolite da Bersani, le tariffe minime, e in realtà che cosa hanno fatto? Tra l'altro, da notare, il Consiglio Notarile di Milano ha deciso di ricorrere a un altro mito di questo paese, il TAR, perché dice la delibera oggetto del procedimento non ha violato le norme in materia di concorrenza. Che cosa conteneva questa delibera del Consiglio Notarile di Milano e anche di quelli di Bari e Verona, che da quel che ho capito erano delle semifotocopie, sì, insomma? Erano provvedimenti in fotocopia, infatti. Tu hai parlato della legge Bersani ed è corretto, perché le liberalizzazioni partono nel 2006 con la legge 248 Bersani, ma nel 2000 e all'inizio 2012 il governo dei tecnici, il governo Monti, dà un'ulteriore spallata. Bersani aveva abolito le tariffe, rimanevano in vita le tariffe di fissazione giudiziale nei casi in cui non c'era l'accordo con il cliente per importo della parcella oppure non era stato fissato. Il decreto Cresci Italia del 2012, convertito in legge, ha ulteriormente spazzato via anche quest'ultima vestigia di una sorta di protezionismo. Il Consiglio Notarile di Milano e poi quelli di Verona e Bari, più o meno contestualmente, quindi è evidente che si trattava di una manovra comunque coordinata, ha mandato una lettera a tutti i notai iscritti per avvisarli che in caso di, per farla breve in sintesi, in caso di dumping avrebbero sanzionato i colleghi e li avrebbero anche sottoposti a procedimento disciplinare. C'è da dire, per rappresentare l'insieme della questione, che non è che i consigli abbiano deciso così sulla base di senza un addentellato normativo. Il problema è che l'antitrust ha dato cioè, loro che cosa sostenevano? Perché ritenevano di poter fare una cosa di questo genere? Ritenevano di poter vigilare sul comportamento degli associati, insomma degli iscritti, sulla base di una norma del codice civile che è tuttora vigente, che dice che in sostanza il valore della prestazione non può scendere sotto certi livelli, perché deve essere commisurato l'importanza della prestazione svolta, insomma, e anche al decoro professionale. In realtà era saltata nelle ultime versioni, anche perché questa norma viene ripresa ed è un ulteriore dentellato al quale si aggrappavano i notai nel decreto Cresci Italia, riprendendo questa formula qua del codice civile. Il problema è che l'antitrust è di avviso completamente diverso, perché sostiene che quella norma si applica solo nei rapporti tra cliente e notaio. Inoltre, una cosa che dà molto fastidio alle associazioni professionali, insomma ai consigli notarili e agli avvocati, è che per l'antitrust l'attività professionale è attività di impresa. Su questo punto tutti i ricorsi, un mese fa gli avvocati, questa volta i notai, cercano di contrastare questa impostazione, cioè di essere equiparati a dei servizi di impresa, attività di impresa, ma sia l'antitrust italiano sia la giurisprudenza europea sostengono che ai fini della valutazione della concorrenza dei mercati si tratta di attività di impresa. Di più, l'antitrust dice che i consigli notarili saranno anche degli enti di diritto pubblico, come sostengono i professionisti, ma per noi sono delle associazioni di imprese. Se un'associazione di impresa manda una lettera ai suoi associati, ai suoi iscritti, dicendo attenzione che devi attenerti comunque delle tariffe in violazione della legge, devono rispondere di questo comportamento che configura delle intese, dei cartelli anticoncorrenziali. Io non sono ancora riuscito a capire perché i consigli notarili gli dia così tanto fastidio essere ritenuti delle ecco, allora conviene agganciarsi a un dato di cronaca. Due di questi tre ricorsi, mentre quello di Milano, lo si legge poi nell'istruttoria che è pubblica, parte da una segnalazione anonima, nei casi di Verona e di Bari sono stati dei notai a segnalare all'antitrust questa lettera, in sostanza dei toni tra virgolette minatori nei loro confronti. Perché cosa sta succedendo? Che anche nel mercato dei servizi dei notai, che sono tutto sommato una categoria abbastanza ancora contingentata, con notevole accesso ostacoli all'accesso alla professione, lo sappiamo, è inutile che ne parliamo. Sta arrivando finalmente la concorrenza, quindi ci sono dei liberi notai che decidono che di protestare contro che fanno dumping. Non è un caso presunto dumping. Non è un caso che la loro associazione. Consiglio notarile di Milano lo scrivevano in quella delibera, che poi queste tre delibere sono state ritirate nel frattempo dai consigli notarili, ma all'esito dell'istruttore dell'antitrust. Il consiglio notarile di Milano diceva: attenzione che abbiamo uno screening per calcolare i carichi di lavoro e i redditi dei notai. È chiaro che a quel punto lì, con una semplice operazione a frazione, con un'operazione di divisione, si vede poi qual è la tariffa applicata dai notai sui singoli atti, più o meno, almeno a livello di macrosistema. E su questo punto l'antitrust è stata particolarmente incisiva. È certo, dura, perché appunto hanno in questo modo... Però per tornare alla tua domanda, diciamo così, sono anticorpi che arrivano dall'interno stesso della professione. Che è una cosa positiva, tutto sommato. Grazie anche ad Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore. Ci scrivete sui notai, che sono sempre qualcosa che accende il tema dei notai. Ci dite: era ora il notaio una figura ottocentesca, basta, altro che sanzioni, un bel controllo fiscale a tutto il nero che fanno. Dite: guadagnano milioni di euro, fanno i bastardi addirittura. Enzo da Latina, va bene, chiudiamo così. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, un ringraziamento anche a Valeria Bernardi in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto. Lunedì torna Sebastiano Barisoni con me, insomma ci risentiamo lunedì mattina dopo il GR delle 9, parliamo di euro, pro e contro euro, insomma chi vuole l'uscita e naturalmente chi vuole rimanere.